attenzione, gente mala! Gianni! Buonasera, Gabino! Ciao Gabi, scusa, c'avevo l'altro apparecchio acceso e stavo in esca, non capivo cosa era, non mi ero accorto che era acceso. È positivo. Gianni, come mi ricevi? Forte e chiaro. Questo qua è l'MC80, collegato a Lico. Vedi, ha migliorato. Ha migliorato come modulazione? Ha voglia, c'è una bella modulazione. Rotto, dai. Non so che sei, metti l'attac, Gabbino. Buonasera Natalino, ben sentito. Eia, lascialo così che va benissimo. Va bene Natali. Voglia, bella modulazione, Gabbino. Perfetto, perfetto, perfetto, grazie, grazie. Chiudo tutto allora, dai, lo lascio così e chiudo le connessioni. Ho ancora aperto, diciamo, tutto il pannello del PTT e della connessione dei microfoni e chiudo tutto, lo lascio così. Ehi, Gabi, chiudi, poi di latta che non apri più. Ciao Natali. Sì. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao, guarda che ti ho mandato il numero di telefono tuo a coso. Tutto fatto già, tutto fatto. Andare. Adesso Gabino ne ha due buoni. E cappa. No, adesso sta uscendo bene con quello lì. Figlia, si è fatto un buon abbinamento. Prima usciva normale, di radio, sembrava una radio normale. Ma questo si è adatta bene, capito? Io, metti, c'è un MC60 o quello che c'hai. E vedrai che esce più forte. Ma forse per quell'apparato che sta usando è meglio questo. Capito? L'MC60 è troppo fracassone. Diciamo che è molto forte come microfono, ma lo puoi regolare la macchinina. Già. Figlia? Guarda un po', è meglio quella di prima o questa qua, la modulazione? Ma sono tutte e due buone, Gabi, che dire, sono buone tutte e due, non c'è che dire, tutte e due sono buone, l'altra mi sembra che abbia più acuti. Sì, positivo, questa qua è, diciamo, il chiuso con MD4, quello che ho modificato io, vedi? Questo rimane più sui toni bassi, ma secondo me è anche la radio, dai. Sì, ma sono buone tutti e due. Se ne hai troppi, arregali no. No. Può darsi che qualcuno lo vendo. Può darsi che qualcuno lo do. Vediamo un pochino. Dai, rientro subito, grazie per la pazienza dei controlli, rientro subitissimo. Stavo scherzando, capito? Non me ne serve, vabbè, avanti, non so periodi, no, di spendere un bel soldi. Vedi la me. Poi ci sono riusciti a fare il pisetto, vabbè, prendo il necessario. Ho preso un detersivo e poi cosa ho giubilato? Le arance, le mele e poi cosa ho giubilato? E un paio di mozzarelle. Sono arrivato alla cassa a 44 euro. Vedi la me, io ogni volta che entro sul supermercato sono dai 40 ai 60, almeno i 40. Purtroppo così e ci dobbiamo arrendere. Io ho comprato anche il cioccolatino, la commessa, perché l'altro giorno mi ha fatto un favore. È stata brava e io ho comprato il cioccolato e ho detto questo è per te, si è fatta tutta la ruglia. E è fatto bene, quando lo meritano già. Allora l'altro giorno dovevo cambiare degli spiccioli e mi hanno detto di andare, sono andato in un negozio che è il discount, mi ha detto no, vai da nonna Isa che te li cambiano lì, perché noi ce li abbiamo gli spiccioli. E sono andato con questi spiccioli, sono arrivato lì e ero lì alla cassa, la cassiera mi ha detto guarda, dovresti aspettare perché sono sola e sto aspettando il momento che non ci sia gente. c'era l'altra Riscaffali che mi conosce e ha detto aspetta che vado e chiamo l'altra conversa, glielo dico. E dopo mezz'ora che ci lui aspettando, ritorna a questa conversa e mi fa, mi ha detto di tornare verso mezzogiorno, cioè a ti cazzi tu, lì aspettando a casa 3 ore, dopo bisogna tornare a mezzogiorno. E con la conversa ha detto, vabbè facciamo una cosa, dai, mi metto io alla casa, tu conta i soldi, ha detto l'altra come l'altra cassa era conta i soldi e metto alla cassa. E l'ha sostituita perché sennò non me ne giambava. E oggi sono andato a fare la spesa e gli ho comprato ciò, tu mi dirai una gazzata, però è stata contenta, mi ha ringraziato. Già, sì, ebbè, per forza, ma quando tratti bene verrà ricompensato, non è che non è neanche un gesto di, diciamo, di vicinità o di approccio, perché capita che magari uno prende, fa un regalo, fa un ringraziamento, tutto qui. Sì, gliel'ho anche detto, perché sei stata brava l'altro giorno. E quando mi ha detto, vabbè, sì, così ha detto non si fa, perché se uno ti dice che te li cambia, poi ti manda, ti dice che te li cambia mezzo giorno, ma tu fastidio al chiave, io ho detto, io stavo per alterarmi, mi sono trattenuto, stavo per alterare, guarda, perché piglia marugugli, non è casino, cioè. Vabbè, ma scherzo, no, è vero. Io già quando mi trattano bene, magari non è che faccio qualcosa così, però ci torno e compro. Per esempio l'altro giorno sono andato in macelleria, sono in questa macelleria a Porto Torres e mi hanno a prendere gli hamburger, no? Siccome vado sempre, mi ha detto ti posso fare un regalo? Il tipo, certo, se ti fa piacere, sì, mi ha regalato un, diciamo, la salsiccia fresca, un po' grossa per fare arrosto. Ho detto, questa la do ai miei clienti, questa la regalo ai miei clienti, fra i miei clienti abituali, perché mi fa piacere. Lo vedo, perché ci trovavo bene. Adesso io quando andrò magari gli porto 2-3 litri di vino, 5 litri di vino, il favore se ne cambia. Beh certo, fa piacere. E se uno è gentile non ci perde mai, Gavi. Quando è scorbutico ci perde, ma lì c'è uno sciacquinaggio che uno lo scaricava all'altro, capito? E questo che a me mi ha dato fastidio, siccome io in quell'ambiente lì ci sono stato tanti anni, tu lo sai, so come funziona, no? E questa ragazza che doveva stare agli scaffali, che era solo in sostituzione alla cassiera quando c'era troppa gente, è stata lei che ha detto dai, lo sostituisco io e tu li riconti. E praticamente poi in effetti ha fatto così, ma se non fosse stato per lì sarei dovuto ritornare e già mi stavo alterando, me ne stavo già girando le scarpe. Sì, beh, perché mi fanno aspettare poi, è perso tempo, almeno dico dall'inizio e ciccia e vado da un'altra parte. Aspetta che mi stanno combinando un casino quei due fuori guai. Ma tu ci credi che stamattina ho aperto i cani, è venuto quello della Mondezza a ritirargli la Mondezza, e il pastore fornese prende, deve essere quello là che ha fatto qualcosa, adesso quando viene a ritirare la Mondezza glielo farò, è venuto a ritirare la Mondezza, deve essere o l'ha usato, gli ha detto qualcosa, no? Gianni ha saltato il cancello, lo stava inseguendo, quindi ti faccio attivare le registrazioni, la telecamera, assurdo, ha saltato 2,70 metri il cancello, aspetta, va a vedere cosa sta succedendo fuori. Figlia cazzo, no? E probabilmente non è che tu che barraggio, che goccia, non sai come sono, ma i turbini quali vengono? Quelli di Sorso da te o Portottone? No, Sorso. Adesso domani mattina ho attento quando viene, domani mattina ho attento perché è strano se è girato così il cane, perché lui è riuscito a saldare, l'altro no, l'altro si sbatteva al cancello, lui si è seguito, se è venuto in macchina e se n'è andato. Arrivo subito già, scusa, mi stanno facendo un casino nero. Via. E beh, cane se si gira così è perché qualche cosa gli hanno fatto, se no non si gira così, no. Non è simpatico a pelle. Tante volte non li sono simpatici a pelle. Tu mettigliela fuori. gli do fuori dal calcello la roba, così almeno non entra. Tattari! Oi! Palla, palla! Parlo con Muro! Ci sono io, lo sono Muro, lo io. Eia, eia! Oggi parlavo di mamma! Magari dietro il cancello è al sicuro, quando è dietro il cancello, invece è il giocare che ti lo brinca. Chiaro grido, Massimo Rubattore tedesco, ma chi si va più? Stava in antaro carrello di vibratore, da busato, quindi io salta, e stava in antaro al carrello. E anche quello di Antonio, il pastore Baga che ne vorrà garantire qui, Antonio stava sempre sul carrello del trattore, caricava lo lupo, tutto qua tendo era sempre in chiesa. Ma era alto il mio, il carrello, era un carrello grande. Ah, cappa. Sì, sì. Io non me lo ricordo il tuo trattore, me lo ricordo di sfuggita, che lo mettevate sotto con la tettuia. Era un carrello di quelli grandi, quello... Era alto, era molto alto, infatti è per quello che ha giunto. Cazzo, da busato che ci riesce a fare un'altra ruta. Un salto mi dà seduto, perché dicevo di sedersi e poi dicevo di saltare. Ehi, ma che usava il trattore? Tu la salti? E io, Angelo. E cosa lo usavate a fare? Per arare e poi per tirare su qualche cosa di frutta, così? Per lavorare il terreno. E il carrello per cosa vi serviva? Per trasportare qualcosa. Tre concerti in 24. Quello che dovevi trasportare. Ma era un bel manno, è pesante il suo carrello. E ve l'avete venduto, usci. Eia. Il pubblico è invitato. Il trattore grande, insieme al trattore grande, cioè va 12 marzo quel trattore. Gappa. Il tuo padre non usava molto, no, per arare, per fare. Poi è rimasto tutto così, dopo che non c'erano più loro, non l'avete più arato il terreno. Oh, si mi sono affuttiti. Vabbè, quando c'è il trattore già fa in fretta a fare. La partitura che hanno di Mazzappa. Azzappano. Adesso non è stato di te, ragazzi, prima l'ora poi c'era il solcatore, si faceva il succhi, no? Il doppio gomero c'era. Ma oltre alla frutta, l'altra roba piantava tuo padre. Ma piantava di tutto, e va via pure il pollice verde quello lì, innestava, tutto gli usciva. A fare gli esti andava anche dal compare, a Chiaghidu non era ticchia uno, va via la mano maradetta, va via. Glielo innestava babbo, cazzo, e gli atticchiva. Bisogna sapere fare gli inizi, non è così. E babbo si documentava, studiava, faceva, e oia. Tutto questo che piantava, ragazzo, fumati, patato, di tutto piantava. E io le ho fatte alla scuola agraria. Io ho fatto 2 anni di scuola agraria, poi mi sono ritirato e sono andato alle professionali, però quando ho fatto 2 anni di scuola agraria, quelle cose le ho imparate, gli innesti, tutte queste cose, togliere così i pollini dai fiori, eccetera. Il primo anno che l'abbiamo preso abbiamo fatto 800 litri d'olio da quell'olivetto. Ma l'avete venduto o tenuto per a Bruiccia? Cosa ha venduto? Cazzo. Ce l'avevamo tenuto. Cosa ti volevo dire? Dopo l'ha fatto appottare a dei potatori e gliel'hanno rovinato, non ha posto più frutto, ha rovinato la rivali. E invece l'hanno portato bene per farsi più legna loro, perché solitamente questi che lo portano lo fanno in base a legna, no? Loro si prendono la legna e te lo portano, e magari lo portano molto per avere più legna, capito? E te lo rovinano e fanno così, e non conviene mettere le mani a questa gente. E vabbè, e l'olio bisogna scoprire qualche posto dove costa poco, perché l'olio extravergine adesso, quello che costa di meno costa 6 euro, ed è poco, perché l'olio d'oliva non ne vale la pena per 6 euro. Nell'aria, qui siamo provati. ma tu ti lo travaglio che fai? Loro tu ti lo facciamo pure, ma cosa è tu andava con lo compari? Lo compari va via un po' di terreno e facevano un bedoso sempre. Però il nostro l'avevano rovinato, lo livello. Non metteva più frutto. Anche Antonio ci faceva un bel po' di soldi dall'Olivetto, ci metteva le reti, aiutava e si divideva i soldi con il padre, ma se ne faceva di bei soldi da quell'Olivetto, c'erano 7 ettari di Olivetto, non so se vi spiego. Anche noi ci avevamo le reti, tutto. E col compare sfruttavano gli olivetti del compare, perché quelli già mettevano. Invece uno che ha rovinato la vita, non ha più posto brutto. Ma quando l'ha data a frutta, non è seguito più. Te l'ho detto cosa ha fatto, se lo dai contro la legna, loro per farsi più legna lo portano troppo e lo rovino. Avanti, Gavi, tu ripeto, ne io ho 10 alberi, io ne ho 10 alberi e ho fatto 305 kg, 305 kg e mi sono usciti 24 litri d'olio e niente. No, io quando adesso per esempio l'anno prossimo credo di non averne perché l'ho portati, perché erano un po' alti, capito? Perché due anni fa l'anno scorso non ho portato per avere l'olio, però l'anno prossimo devo rassegnare e l'olio non avrò. Ma lo usi solo per famiglia, per casa tua lo usi? Sì, già. Mia madre, mia suocera e poi per casa, per qua e ci fa giusto, capito? Ci fa giusto e quest'anno ho anche un po' razionato le divisioni, i beni, perché praticamente l'anno prossimo me lo devo comprare, quindi quest'anno invece di guadagnare sono contentato, gli altri li rimango io senza. Bisogna che io trovi qualche negozio dove costa poco, dove lo compro io, il meno che costa è 6 euro al litro. Già, ma lo paghi così, lo paghi così, anzi, te lo fanno a prezzo buono perché, ma sai quanto era l'olio d'oliva quest'anno? Fatto così, però come posso farlo io? Era 8 euro qua a Sorso, e lo paghi così. Considera che mi ha dato poco, perché io faccio quello verde, faccio il verdone e raccolgo quando sono verdi e niente, a noi piace di più il piccantino. È più saporito, però che non sia troppo acido, se no ti piglia il gol. No, non è acido, l'acido lo fa quando le raccogli un bella terra, e allora diventa acido, in quel modo lì sì, però altrimenti è piccante e basta, è più verde, non a me piace così, a me piace, sono quelli che prendono, fanno matura di oliva, la colgono anche con le punte, però ti fa molta acidità d'olio. Io avevo un amico che aveva 7 ettari di olivetto e aveva i clienti che ogni anno glielo compravano, c'era un magazzino dove lo vendeva, le faceva un medio olio. E il nonno non si muoveva dal frantuio, perché se lo rubano, quelli dal frantuio se ne rubano 3 litri da te, 5 litri dall'altro, 50 di luce, capito? E niente, praticamente un anno è riuscito acido, ha portato da Carlini e praticamente lui l'ha raffinato e se l'ha riveduto come un extravergine. Ho capito. No, io lo porto a Sassari, qua dove c'è il coso del tribunale, il coso fallimentare a San Pantaleoli, se non sbaglio, San Pantaleoli. E sono onesti perché mi trovo bene, non sono di quelli che gliene approfittano. Mi dice, vieni ad accorto, perché alla fine lo sai. E sempre di qua, sempre con la questione, quando tratti bene, almeno dimmelo, te lo tieni, mi lo dì, ti lo dico, però non mi augura. No, di lì mi trovo bene già, non ho mai avuto problemi, mi segue. Sono abbastanza onesti. Vabbè, se sono onesti è un'altra cosa, però dove lo facevano loro dice che ora non si sono accorti, capito? Che quando si assentava, perché si davano il turno, quando si assentava uno, ragazzi, li approfittavano, capito? Ne approfittavano perché loro lo sanno quello che esce tutti gli anni, capito? Poi un anno può darti di meno, un anno può darti di più, però meno male lo sanno, quando lo fai ogni anno, non lo facevano così, lo davano, praticamente facevano portare gli alberi e gli davano la legna a chi li portava, capito? Però già avevano gente onesta, li portavano bene e li lasciavano gli alberi, diciamo, che davano il frutto poi, non di quelli che poi non danno più frutto perché li togli troppo a legna. Sì, vabbè, no, se prendi già, se fotti troppo e tagli troppo, poi non te ne dà e poi rovini anche l'albero. Ma poi non è solo la potatura, l'albero bisogna togliere tutti quanti quei succhioni che toglierà sotto, dai, bisogna anche curarlo, bisogna lasciarlo, bisogna dargli acqua d'estate, non lasciarli così, perché altrimenti poi le olive prendono e non va bene per l'acidità del luglio. Poi io qua ho 40 alberi di arance, 6 di mandarini, 3 alberi di pompelmi, alberi di fichi, ne avrò 5 o 6 di quei fichi neri, poi c'avevo un albero di albicocca che si è rovinato, deve essere entrato quell'animale sotto e mi l'ha secco già, mi c'avevo queste albicocche, guarda, erano assurde. Me l'ha rovinato, vedi, quell'albero mi dispiace, poi c'è un albero di pesche, quelle pesche piccoline, non so se sono sarde, quelle pesche sarde, e poi un albero di mele, quelle sarde lo stesso. Ebbene, saranno quelle San Giovanni, mele miari, e le altre, quelle piccoline sono quelle di seno, di sorso, quelle dolci. Sì, sono quelle piccoline. Io l'arancia è il regalo, quando è il periodo, come tra Calai e Aranzi, c'hai pure guai. Ho 4 alberi di Washington, poi gli altri sono tutti per sanguigli, con le aspre muta. Con la spremuta quando escono già te le do un po'. Questa mattina mi hanno regalato le cassette, mi hanno regalato una cinquantina di cassette di quelle nere e me le ho messe da parte. Paga, non c'è problema, io se già sono ghiotto di arancia, io me ne mangio due a pasto, sempre. E a volte mi alzo anche la notte a mangiarmelo un arancio, quando c'ho molta sete mangio un arancio e dopo mi si go. Sì, e io per l'arancia vado matto. E ho trovato anche un tipo di mele che sono molto buone, della Merlene. Sono molto buone, meglio delle Melinda. Con le Melinda erano troppo dolci, sì, erano su cose ma troppo dure. Io mi trovo bene con quelle mele Fuji. Quelle mele Fuji mi vanno benissimo, non mi posso lamentare. Sono molto buone. Io guarda, quando le mele sono buone me ne accorgo subito, anche se non le mangio. Per noi pappagalli, se non la mangiano vuol dire che non è buona. Se no, se è buona si la mangiano in due. Allora, fai anche tu la prova dell'asino. L'asino l'acqua, se non è buona, non è pulita, non è bene. L'asino è pulito, io lo so. Se non è pulita l'acqua non la tocca. È meglio del cavallo l'asino. Infatti la carne dell'asino è poco buona. La carne dell'asino, la carne dell'asino è buona, sì, io lo so, la prendevo la carne dell'asino a Sassari, al mercato la Pudiche, io la prendevo lì tagliata a coltello, bella bella bella, che quella di cavallo, e me la portava al circolo, me la portava al circolo, e quando scendeva, perché la clinica professoressa me la portava una volta alla settimana, una volta di o due volte al mese, dai, me la facevo arrotto ed era buonissima. E lo so, io quella carne d'asino di cavallo la compravo a Porto Torres in un vicolo che c'è, che adesso non mi ricordo che via è, che poi esce da piazza, e c'era un tipo, diciamo di una certa età, che vendeva carne di cavallo lì, era a me buona. E pudile è quello, come pudile. Non c'è più quello lì, quello vendeva solo carne di cavallo, solo carne di cavallo. Sì, si è messa su chiusa, mi su chiusa, una miliardina che buona. Sì, già lo so. Avanti Natalino. Natalino si è perso, che tagli a tale lui. Scherzando, sono già le 7:20, boh. Sì. Già passa il tempo. E niente. Mi piano piano tutti lo vuoi fare il microfono. Non sì, adesso lo provo, aspetta, accendo la radio. Oggi mi ha arrivato il mangime dei pappagalli, perché l'ordino da Furi, che qua non ce n'è, che sono nettarini e loro mangiano nettare, l'ordino da Amazon. Mi hanno portato questo mangime, capì? Lo prendo, non mi sono accorto di nulla, lo prendo a portare a casa. Cazzo, tutto aperto sotto, spaccato il pacco di plastica che lo contiene, che è grande, da 3 kg. Spaccato e il mangime che fuoriusciva. Che mi sono gabbizzato d'aglio e i pappagalli devono mangiare, quindi non posso rimandarli indietro, se no li avrei rimandati indietro. Preso, sì. Basta mandarglielo indietro, dovevi mandarglielo. No, mi serviva, Gabi, c'avevo solo da mangiare per 2 giorni, mi serviva, se poi non mi arriva era un casino. Hanno sfondato praticamente un contenitore tipo vaschetta grande da 3 kg e l'hanno spaccata sotto, capito? L'hanno spaccata sotto ed è fuoriuscito il mangime. Meno male che io di quelle vaschette le tengo, perché ci metto anche viti, mezzo, viti e cose, quando li libero, no? Mi servono per altre cose, quindi le ho tenute un po' e le ho travasate e basta, tutto lì. Meno male non ha preso umidità. Meno male che non ha preso umidità già, perché quando arriva così è un casino. Sono preso da Amazon. Cosa? Sono preso da Amazon. Sì, da Amazon, sì. Non costa poco, no, 45 euro costa. Vabbè, quindi non lo stai pagando neanche 10 euro, Te l'ha portato, ma come è normale già. La postina. La postina. Quindi niente tramite SDR, è arrivato tramite poste, tutto. È arrivato tutto tramite poste. Vabbè. Guardate che non sia umido queste cose qua, mi sembra. No, quello no, perché rimane tipo farina, capito? E quando l'ho travasato non era umido, è sceso bene. Ma ne accorgo se è umido, si fa tutto un blocco, capito? No, quello lì no, non è umido, perché sicuramente l'hanno rotto loro, mica l'hanno mandato da Amazon così. L'hanno rotto loro come lo maneggiano, capito? Sì, sì, no, da Amazon è impossibile che arriva rotto, perché non se la sporcano la faccia già, perché non se la sporcano la faccia, e addirittura Gianni, se gli fai il reso, loro gli fanno il cartellone alle porte, o a chi l'ha consegnato, perché loro gli risulta, mi sì. Quindi non ti preoccupare. Io avrei fatto, io perché che dobbiamo stare attenti, lo sai, no, la questione delle radio, queste cose qua. Quindi io ho imparato quando arrivano i pacchi a controllarli sempre. Non so perché me ne sono accorto, mi ha buttato un pantalone, come l'ho preso, ho trovato il pantalone bianco, e perché fece questa cosa? Ho guardato della, e la mangiva che era sceso, l'hanno buccato sotto, praticamente l'hanno, come l'hanno buttato sicuramente, perché quello è stato buttato, non a spaccare quella scatola lì ce ne vuole, perché è plastica dura, non è nemmeno facile da aprire il coperchio, figurati, è ben dura la plastica. L'hanno sfondato, capito? Praticamente era tutto crepato attorno. Ma perché se la lanciano la roba? Perché la roba se la lanciano, capito? Io già lo so già. La roba loro se la lanciano. E fargli una gara tipo a chi può lanciare più in alto. La bomba è nei gaggi. E ecco qua abbiamo fatto la frittata. Ma io non ho capito che professionalità c'ha la gente, però io non lo so. Cioè, ma cosa ti costa fare? Ma, cioè, non è che devi, va bene, fretta, devi produrre, ma capita, ma tu a me mi serve di danno. Però costa 2.000, non lo capisco. Costava 40, c'è aumentato. Tra una cosa e l'altra mi viene sulle 45 euro, capito? E c'ho anche Amazon Prime, mio figlio c'ha quello, infatti me lo ordina lui, perché c'ha Amazon Prime lui e non paga manco le spese di spedizione. Sì, anche io c'ho Amazon Prime, anche io, bugia, vabbè, non io, c'è la mia moglie, però diciamo di casa, dai. Perché ho un Amazon, caspita, con le spedizioni, proprio guarda, proprio con le spedizioni con Amazon sono campione, perché al momento sono numero uno. Sì, io fra poco vi lascio e attaccherò il portatile per vedere se mi ascoltate. Però ieri ho provato, ve eravate già andati a giocare il portatile, io se non ve lo dico. Sì, io sono qua già, quando è prova, chiama. Io sono qua, io. Se non ti sento, non ti sento, però io sono qua in radio, sto facendo cosa. Io adesso mi devo preparare, dai. È già tardi. Ti ho fatto poche di cose, io ti ho fatto la spesa, sono andato in farmacia, sono andato in chimica, sono andato in chimica a pacchare, dai. A casa lo senti, il calore di brutto. Beh, sì, lo sento, poverino, già, lo sentono da lontano questa cosa, lo sentono da lontano. Ciao, preparati già, tranquillo, già sono qua, magari prima di uscire, infatti mi diceva mi sto uscendo, io mi tengo qua in ascolto, così vediamo un pochino, ok? Già dai, devi dare il tempo di salire su nella salita, perché da lì che ti sento, se ti sento, se no pazienza, dai, io voglio provare. Ma guarda, no, trovo importante che quando sto uscendo di casa mi dici, guarda, mi sto uscendo, tra 10 minuti ti ascolto e vediamo un pochino se arrivi qua. Dai, io adesso vado. Gianino, sì sì. Ciao Gianni, sì. Ho provato a chiamarti, ma sicuramente non mi sentivi, dai. Ma ho visto un segnale, però... Era in mezzo al QRM, già, ha dato una tacchettina, però era in mezzo al QRM. Cappa, dai. Magari la zona non è favorevole la tua. A Porto Torre ci sono arrivato. Sei arrivato a Porto Torre, ci hanno risolto. Ehi, cosa? Sandro Tiger. Dove era Sandro? Sandro allora era... penso al satellite ancora abitato. Ah, non oggi, due tempo fa. Ehi, a tempo fa, poi si era trasferito, non abitava più lì, abitava a Satellite quando ha copiato a me. Sì, positivo. Già, no, qua la verità, no, non ho sentito qualcosa in mezzo al QRM già, però non è che non ti ho tirato fuori. Ehi, ha fatto mangiato? No, non ho mangiato ancora, non ho mangiato perché sta aspettando mia moglie. Io adesso vado a prendere la mia compagna. Se ti trattieni lo attacco, se no non ne metto nemmeno di antenna. Vai, attacca. Sì, vabbè, ci sentiamo allora. Ciao. Sì, ciao. Attenzione, Joker, ascolti il doppio run, cambio. Vedo più lungo, sì, ti ascolto, segnale 9-5, radio 5, avanti. Da parte mia in partenza da casa, dai, va bene. Positivo il cappalloggio, in questo passaggio ti ho copiato, 9-20, doppio lungo, radio 5, 9-20, radio 5, Gianni, tutto positivo. Zona luci gialle, dai. Gava, va benissimo questa antenna, dai. Beh, se sei luci gialle per me sei molto aperto, già. Se sei luci gialle per me sei molto aperto. Ti copio sempre 9-20 qua e la radio super 5, bello. Cappa, va bene così, dai. Sì, ho fatto un buon acquisto, Gavi, non me ne sono pentito, dai, questa antenna va bene. L'ho provata a diversi posti e arriva sempre bene. Positivo Gianni, adesso in questo passaggio qua ti ho copiato 9-25 con una bellissima radio, 9-25 Gianni, sta aumentando il segnale. Io adesso mi sto dirigendo verso Sant'Orso la Nord, dai. Positivo, sì, dai, diciamo che siamo 6 km, 7 km di radio da me, sì, quindi dai, ti copio senza problemi, Io a te come ti arrivo lì, Gianni? Mi ho una bomboletta, è inutile dirlo, dai, è la segnale è buono, sono lo scala. Capite, secondo i punti se fanno lo scala, già va bene. Positivo il K, qua sei sempre 9-25, radio 5, si sente che sei in movimento, però ti ascolto benissimo già. Ehi, diciamo, qualità-prezzo è una bomba questa antenna, dai. Mi ha fatto bene, come si chiama, anima lunga, a consigliarmela. Sì, Gianni, sì, va bene, no, non ci sono problemi. Molto performante. Ma anche la radio è buonissima, la radio è buona, vabbè, sto usando un ottimo apparato in macchina, quindi quello è scontato, ma il segnale 10 è proprio bello. Tanto io non la devo usare con grosse potenze, mi basta la potenza dell'apparecchio. Va benissimo da usare in macchina questa, perché è corta, è fina, non è pesante e la calamita attacca due volte più dell'altra. Va bene Gianni, sì. Guarda qua sei sempre, allora adesso mi sei arrivato 9.25 a picchi positivi, 9.25 a picchi positivi, vabbè, il segnale oscilla, però sei in movimento, ma dai, quasi diciamo una sorta di 9.25. Sì, dai, sono soddisfatto di questa antenna. Eia. Quella bisogna, secondo me va bene così, con diciamo la potenza della radio. Non è poco il segnale che hai qua. c'è la ferrovia di San Giovanni, là, dove c'è la ferrovia. Sì, alla grande, già alla grande, sempre il segnale, sempre quello, e la radio è sempre buona. E mi sto per immettere sulla 131. Positivo, direzione Porto Torres. No, negativo, zona di campagna, là. Positivo, diciamo dalla parte di, diciamo, verso Bancali. Più o meno lì, dai, più o meno lì. Diciamo che non voglio dire la zona perché non voglio che sappiano dove sto andando. No, va bene, non mi interessa la zona, non mi interessa la zona, però è per sapere più o meno la coordinata per seguire il tuo segnale, seguire la tua tratta, dai. Non mi interessa la zona, però diciamo che stai andando verso ovest del nord Sardegna. Ora, Gavino, guarda, adesso io sono di fronte a Briccome. Positivo, guarda, sei sempre col segnale 920, oscillante 925, sempre la radio molto presente e molto chiara. Ora, eia, guarda, adesso sono vicino agli punti, sono quasi arrivato agli punti. Segnale sempre quello, 920, e la radio è sempre buona, sempre un'ottima radio, quindi è oscillante, 920, 915, 925, dove ti muovi, dai? E vabbè, con questo B, dai, ho capito, e vabbè, quello è normale, come ti muovi. Però diciamo che la media è di 920, la media è di 920, io ci arrivo sempre bene. Sì, Gavino, arrivi sempre bene. Positivo, dai. E allora abbiamo fatto un bel lavoro, guardate che la radio sia chiara. È potentissima la radio, è molto forte anche. È chiara e forte, benissimo, va benissimo. Adesso mi sei arrivato con un picco di 9,40. In questo passaggio, quando hai fatto il verso F, quando hai fatto il forte, sei arrivato con un picco di 9,40. Allucinante, allucinante. Positivo. Guarda, ti faccio un video, aspetta. Adesso sto andando in campagna e vediamo un po' come arrivo, qua ci sono alberi e cose, non lo so, è un po' chiusa come zona, non so come ci stia arrivando. Aspetta, mi ascolti sempre, Gavi? Alla grande. E adesso sono nei vicoli, là, sono nei vicoli campani. Vai, Gianni, fai un passaggio. Io adesso sono, vabbè, nei vicoletti di campagna, non lo so, sono in mezzo agli alberi, in mezzo alle case, là. Positivo, sempre 9,20 a picchi 9,25, la radio è bellissima e chiara, vai. E allora va benissimo questa radio, là. Non c'è niente che dire. Si sente che sei in marabubile, però il segnale è oscillante, però guarda, la radio è sempre bella, comprensibile, forte e chiara. Ma sei già in zona di alberi e queste cose qua? Io sono già nei vicoli di campagna, là. Sono adentrato nei tre vicoli, gaba. Positivo, è Caparosa, Gianni. Dai, tutto ok, sempre segnali fortissimi, come adesso vedrai. La cosa è bella, ti compio veramente bene qua da me. Quasi quasi, ma con la Turbo 2001 arrivo così forte. La Turbo 2001 l'abbiamo provato qua nel mio QTR, quindi non lo sappiamo, però per essere un antenino basso e così fine è alla grande. Ti ho mandato un video, Gianni. Ora, attenzione Gavino, mi sta problemi il microfono, ogni tanto non esce, l'ho messo anche lo spray per contatti, va bene per un periodo e poi di nuovo comincia da capo, chissà cosa è successo. Devi prendere, devi aprirlo e guardare bene la dritta. Perché poi gli dai un colpettino e riparte, va bene. Cappa, sempre in zona di campagna, mi sto addentrando all'interno, devo stare molto attento perché qua è un casino trovarla. la casa. Sì, vai tranquillo, io sono qua in radio, il segnale è sempre quello già. No, già sono tranquillo, sto andando piano piano. Sì, importante, stai attento, che non dai, è quella zona un po' strana. Venga, non è trafficata questa strada, è tutta allagato, eh. Ma è con animali, caspita, è un casino. Questa è strada di campagna, come piove, si allagano tutte, è un casino, sia. Sì, ma qua c'è tutto quanto bello illuminato, dai, già si vede bene, già ci sono i neon. Sì, è positivo. Adesso sei sempre 9:20, sei qua da me. Quanto? 9:20? Positivo, fa un passaggio che mi faccio il video. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, doppio room, zona campagnola. Vai, dove sei Gianni, zona campagnola. Così, fai un beep. Capagala, capagala. Attenzione, Gavino, se ascolti il doppio room, capa di Roger e capagato. Positivo, sei 9:20, 9:25, anche a picchi 9:30 qua da me. Va bene, di lusso, va benissimo. Ti sto mandando il video così ti accorgi di come arrivi. Già ci credo, Gavino, già ci credo, io di te mi fido, non c'è problema. Adesso non posso guardarlo, perché sono un po' incasinato, che devo controllare dove mi devo fermare. Ehi, già, me li sto riguardando e guarda, sono usciti benissimo. Gavi, adesso mi sono fermato con la macchina, dai, posso stare più tranquillo, da qua sono fermo, dai. 9:30 Radio Super 5. Va più che bene. Eia, guarda, ti faccio un altro video adesso, così ti rendi conto, adesso sei fermo, vai. Scappa. Poi al telefono ti dico davvero, capito? Non lo dico qua. No, vabbè, tranquillo, è solo per capire più o meno, diciamo, la zona, in modo che anch'io so dato una comparazione, mi segui. Adesso tu sei fermo, va, non vuol dire fare un passaggio. Sì, guarda, 1, 2, 3, arrivito al luogo. Sono arrivato dove devo arrivare, dai, mi sono fermato, adesso aspetto che esca. Cavagata. Vedi, 9:30, Radio Super 5. Andare, capi. Sono soddisfatto, dai, già va bene. Sì, è bene, per forza, segnali così, capita, in barramubile non sono da poco, eh. Vabbè, poi non c'ho nulla attaccato, capito? Sono la radio, anche se la radio è buona, però, non c'ho niente attaccato, capito? Infatti, ma va bene così. Non vuole entrare nessuno stasera, ieri è entrato Roberto Quadrato. Poi io me ne sono dovuto andare a mangiare, là. E mi è dispiaciuto perché sarei voluto restare, ho provato ad accendere anche il portatile, ma non vi ascoltavo, un casino, il portatile, buh. Ho capito già, però portatile, no, Roberto è, diciamo, su altre bande, diciamo, lo sto ascoltando, quindi qua non c'è. Lo so, ogni tanto per cui viene, dai, ma confronto ad altri radioamatori che non entrano mai, 27, lui entra. Sì, infatti, no, non c'è problema, poi tu con lui puoi parlare di tutto, non ci sono problemi, perché proprio si vede che è appassionato di radio. Niente. Comunque Gianni, complimenti, bella antenna, bella radio, lascia tutto così e non tocca a nulla. No, non tocco niente, no, capito. Mi va bene così. Ogni tanto manca qua. Attenzione, binario 10, cambio. Poco fa ti stavo chiamando ed era una banda più in alto, se ne avevo pure di chiamarti. Oi. No, vedrai dopo che vedi questi video, ti rendi conto che tu non devi prendere, non devi toccare niente. Ti rendi conto anche dell'esattezza, della precisione di questa radio. Cavolo, quella radio. sono come certi baracchini che sono avari oppure le danno in più di segnale, quelle le danno giù i segnali. E poi soprattutto si sto ricevendo anche